America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Charlotte, Mario Platero. Grande allegria, grande atmosfera da convention, la convention democratica è partito ieri notte a Charlotte, in North Carolina, il contrattacco dei democratici alla convention repubblicana di Tampa. È partito questo attacco con Michelle Obama, con i gemelli Julian e Joaquin Castro, texani, 37enni, astri nascenti del partito, con Cory Booker, leggendario sindaco di Newark, con Pat Strickland, l'ex governatore dell'Ohio, uno stato chiave per queste elezioni. L'Ohio ha giocato un ruolo davvero importante e Strickland ha attaccato a fondo Mitt Romney e ha ricordato quanto sia stato importante dal punto di vista economico il rilancio dell'industria dell'auto da parte di Barack Obama, quindi ha toccato uno degli argomenti centrali che cavalcheranno i democratici per far capire al paese che qualche cosa in questi 4 anni si è fatto davvero. L'Ohio, vi dicevo, è uno stato chiave, pensate che hanno scelto una signora qualunque dell'Ohio per presentare Michelle Obama. Questa signora, ve lo racconto, ha 5 figli, 4 dei quali sono al fronte in ognuna delle armi americane, con i Marines, con l'esercito, nella marina militare e nell'aeronautica. Questa signora ha fatto una descrizione straordinaria degli Obama e di come Michelle si è occupata di lei proprio per questa sua situazione di avere questi figli al fronte. Poi c'è stato l'ultimo dei Kennedy, Joe Kennedy III, 32 anni, in corsa per un seggio alla Camera in Massachusetts, capelli rossi, figlio del nonno Bobby Kennedy, e lo ricorderete, Bobby Kennedy fu ucciso a un passo dalla nomination democratica nel giugno del 1968 in California. Insomma, è stata una coreografia, quella di ieri notte, direi molto diversa da quella che abbiamo visto la prima giornata di Tampa. C'era molta più passione, c'era molta più energia, c'era molta più partecipazione anche da parte del pubblico, una coreografia anche adatta al Partito Democratico, perché ha cercato di toccare ogni corda di questo caleidoscopio di partito, dalla tradizione aristocratica e ricca dei Kennedy, appunto, come vi dicevo, alle minoranze che per l'80% dell'elettorato si riconoscono nel partito. Insomma, una passerella di celebrità nazionali che ha rispolverato persino l'ex presidente Jimmy Carter, apparso, devo dire, in un malinconico video relegato per prudenza in prima serata. Poi il momento più emozionante c'è stato quando è apparso Joe Kennedy. This is the first convention since 1956 that we meet without Senator Kennedy. But make no mistake, he is here with us this evening. Avete sentito, questo ragazzo di 32 anni insomma, si è presentato, lui sta correndo, vi dicevo, per il Massachusetts, ma soprattutto ha presentato lo zio. È stato un momento di grande emozione, dice: questa è la prima convention al 1956 in cui ci ritroviamo senza il senatore Kennedy, ma non commettete errori, dice lui, è qui con noi questa sera. Lo vedo nella passione dei nostri delegati, nel carattere dei nostri candidati e nelle cause che ci uniscono. E poi altro momento molto importante, perché è stato il momento in cui i democratici hanno contrattaccato su un personaggio importante che è apparso a Tampa, e cioè Marco Rubio, il senatore Marco Rubio dalla Florida, un beniamino dei repubblicani, che hanno risposto a questo 41enne, a questo ragazzo prodigio, con un loro ragazzo prodigio, con Julian Castro, vi dicevo, 37 anni, ha un fratello gemello che corre per la Camera, Joaquin, che l'ha presentato, ed è sindaco di San Antonio. Ha un sorriso questo ragazzo straordinario, una grande passione, una grande oratoria. Sentiamolo. Republicans tell us that if the most prosperous among us do even better, that somehow the rest of us will too. Folks, we've heard that before. First they called it trickle down, then they called it supply side, now it's Romney Ryan, or is it Ryan Romney? Either way, their theory's been tested. It failed. Our economy failed. The middle class paid the price. Your family paid the price. Mitt Romney just doesn't get it. Ecco Castro, che rappresenta le minoranze, ma rappresenta anche gli americani che si fanno da soli, dice: i repubblicani ci dicono che se il più fortunato di noi fa ancora meglio, in qualche modo anche tutti gli altri lo seguiranno. Beh, ragazzi, dice, questa storia l'abbiamo già sentita. Prima l'hanno chiamato trickle down, poi supply side, ora si chiama Romney Ryan, comunque lo si voglia chiamare, l'abbiamo provato, ha fallito, l'economia è andata in crisi, alla fine chi ha pagato? La classe media, le vostre famiglie hanno pagato, e Mitt Romney just doesn't get it, assolutamente. non se ne rende conto. Ecco, questo è un attacco economico importante perché torna a quei valori di fondo che caratterizzano il Partito Democratico e soprattutto Romney è al fianco esposto ai conti svizzeri, ai conti alle Cayman Island, al fatto di essere un presidente più materialista che idealista. E Castro ha parlato della storia della sua famiglia, di sua nonna che è arrivata a San Antonio, ma non è vissuta abbastanza per vedere questi due fratelli diventare uno sindaco della città e l'altro avviato verso il congresso americano. La storia della mia famiglia, ha detto Castro, non è speciale, è l'America ad essere speciale, rendendo le nostre storie possibili. For Barack, these issues aren't political, they're personal. Because Barack knows what it means when a family struggles. He knows what it means to want something more for your kids and grandkids. Barack knows the American dream because he's lived it. And he wants everyone in this country, everyone, to have the same opportunity, no matter who we are or where we're from or what we look like or who we love. Ecco, in chiusura, Michelle Obama, il momento direi più alto, più emozionante, davvero da brivido certe volte della serata, è stata una grandissima interprete, questa donna si è presentata al pubblico con un vestito rosa, con una capigliatura straordinaria e ha parlato a questo pubblico tenendolo sempre così sul filo della tensione, raccontando la storia della sua famiglia nel breve spezzone che vi ho fatto sentire. Dice: per Barack i problemi che abbiamo non sono una questione politica, ma sono una questione personale, perché Barack sa che cosa significa quando una famiglia fatica andare avanti, sa cosa vuol dire desiderare qualcosa di meglio per i propri figli, per le proprie figlie, per i propri nipoti. Barack conosce il sogno americano perché lo ha vissuto e lui vuole che ognuno in questo paese abbia la stessa possibilità. Beh, c'è stata ovviamente una reazione straordinaria da parte della folla, poi Michelle ha raccontato quando si sono conosciuti, quando erano giovani, quando non avevano una lira, quando la macchina di Barack Obama era arrugginita, e ha detto, dice: mio marito, io continuo a essere innamorata di lui perché lui alla fine non è cambiato, continua ad avere uno straordinario idealismo e fa le cose che fa per migliorare la gente, non per guadagnare. Ecco, direi un messaggio di chiusura che dà un'idea chiara di come diverse siano le impostazioni di queste due convention, forse molto più pragmatica, molto più mirata al dettaglio, a risolvere i problemi che tuttora assillano il paese, la convention repubblicana, molto più idealista e densa ancora di promesse e di guardare in avanti. Il forward, il nuovo slogan di Barack Obama, è tornato questa volta in un contesto sicuramente più coerente. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, siamo in Carolina e dunque non potevo che proporvi una canzone che amo moltissimo, di James Taylor, Carolina in My Mind. In my mind I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Karen, she's a silver sun. You best walk her away and watch it shining. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now, I'm crying, ain't I? Gone to Carolina in my mind. There ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. And hey, babe, the sky's on fire, I'm dying. See the sunshine. sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. The dark and silent late last night, I think I might have heard the highway calling. Geese in flight and dogs at bite. The signs, it might be omens, say I'm going, I'm gone to Carolina in my mind. With a holy host of others standing around me, still I'm on the dark side of. Seems like it goes on like this forever. You must forgive me if I'm up and gone to Carolina in my mind. Lasciarlo per tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.